Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Marianna Stefanucci. Ogni tanto, sui muri e per le strade delle nostre città, abituate ormai a tutto, spunta ancora qualcosa che riesce a sorprendere, a catturare lo sguardo di chi passeggia, a immobilizzare il traffico. Per esempio è successo a Milano nel maggio del 2003, quando nel cuore della vivissima piazza 24 Maggio, zona Navigli, sono comparsi appesi a un albero dei finti bambini incredibilmente realistici e incredibilmente inquietanti. Era l'installazione eccentrica e provocatoria dell'artista Maurizio Cattelan, famoso in tutto il mondo per le sue opere ironiche, ciniche e dissacranti. La polemica, naturalmente, ha avvolto all'istante il sindaco e tutto il suo entourage, aprendo l'eterno e mai risolto dibattito sul buon gusto. C'è stato perfino un ferito, un operaio 54enne che, offeso dalla rappresentazione, si è arrampicato sulla pianta, riuscendo a staccare uno dei fantocci, per ricadere però malamente a terra, tanto da richiedere l'intervento dell'autoambulanza. Cattelan però ha fatto centro. Bene o male, l'importante è che se ne parli. Deve aver pensato la stessa cosa il grande comico francese Coluche, cresciuto nei cabaret parigini e molto popolare negli anni 70, che annunciando con una messianica chiamata alle urne la sua candidatura alle elezioni presidenziali, ha mandato in tilt l'intera Francia. Francesi e francesi, buonasera. Quest'anno ha fatto schifo e il prossimo sarà peggio. Mi appello ai fannulloni, agli sporcaccioni, ai drogati, agli alcolizzati, ai froci, alle donne, ai parassiti, ai giovani, ai vecchi, agli artisti, ai galeotti, alle lesbiche, agli apprendisti, ai negri, ai pedoni, agli arabi, ai capelloni, ai pazzi, ai travestiti, agli ex comunisti, agli ex astensionisti convinti, a tutti coloro che non contano sugli uomini politici, a votare per me, a iscriversi nei loro comuni e a annunciare la buona novella. Mettetegliela anche voi in quel posto con Coluche, il solo candidato che non ha alcuna ragione per mentirvi. È il 1980. Il paese è esausto a causa della stagnazione politica ed economica e si trova fino a quel momento a dover scegliere per il posto all'Eliseo tra Valéry Giscard d'Estaing e François Mitterrand, candidati ben più ortodossi dello strampalato Coluche, il cui faccione, stampato a grandezza innaturale sui muri di ogni città, lascia tutti senza parole. Proclamandosi candidato nessuno, fa conferenze al Teatro Olympia e scrive articoli sulla rivista satirica Harakiri. All'inizio nessuno lo prende sul serio, si pensa a uno scherzo messo in piedi a mo' di provocazione. Ma invece Coluche, famoso per le sue battute sempre sul limite della volgarità, poco a poco inizia a convincere. A buon coup! Tutti i media guardano col fiato sospeso il potenziale presidente Coluche che sta prendendo piede e seguono giorno dopo giorno il suo programma elettorale semplice e insolente, costituito da obiettivi a dir poco sopra le righe. La campagna elettorale è bene bien lancée. La campagna elettorale è cominciata. Per Coluche i punti sono chiari. Politica estera, espansione verso l'Albania e Principato di Monaco, perché sono regimi isolati. Politica interna, inclusione degli esclusi di tutti i tipi. Coluche si propone di diventare il leader delle minoranze e ha in testa un calcolo molto incisivo. Minoranza più minoranza uguale maggioranza. Il clown, come verrà liquidato più tardi, ottiene l'appoggio di 500 sindaci, come richiesto dalla legge per presentarsi alle elezioni, e i sondaggi lo danno per favorito. Lo psicanalista Guattari, il filosofo Deleuze e il sociologo Bourdieu sostengono insieme a un folto gruppo di intellettuali la sua candidatura finché lentamente, e da chi conta, viene estromesso dai giochi. Le tensioni crescono e addirittura viene assassinato un suo collaboratore. Il comico si ritira. Vince Mitterrand, ma l'ansia di rinnovamento sbandierata da Coluche resta nell'aria. Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende i gradini di grattacieli. Per prendermi la vita, per prendermi la vita. Quello di Coluche in Francia non è l'unico caso di un comico che scende in politica. In America, Al Franken, con alle spalle una solida gavetta allo storico programma Saturday Night Live e numerosi libri e sketch di satira, è diventato senatore al Congresso, dandosi come obiettivo principale quello di usare tutte le sue forze per sconfiggere Bush. Mentre Benjamin Rousseau, Venezuela, noto al grande pubblico per un personaggio con cappello di Vimini, il Conte del Guacero, si è presentato alle presidenziali contro Chavez e Rosales. I'll be there. In Italia c'è uno strano personaggio con la voce riconoscibile tra mille, partito dal palcoscenico dei cabaret, che ha gettato scompiglio nell'ordine politico. È il nostro primo protagonista di oggi. Il suo nome è Beppe Grillo. Beppe Grillo. Signori, dopo strepitosi successi ottenuti a Genova e dintorni, e in tutto il mondo, Beppe Grillo! Ah. Sguardo da pazzo, stazza monumentale, cadenza genovese, Grillo, mai nome fu più azzeccato, sintetizza perfettamente la definizione di animale da palcoscenico. Si muove nervosamente da destra a sinistra, gesticola in modo esagerato, scende tra le poltroncine, scrolla un uomo del pubblico prendendogli la testa tra le mani e improvvisa come solo i grandi che vengono dalla gavetta nei locali con 10 persone più il proprietario sanno fare. Negli ultimi anni questo folletto arrabbiato è riuscito a radunare intorno a sé, al suo teatro impegnato e al suo manifesto politico, una schiera di insoddisfatti che, indignati da qualsiasi partito, trovano in lui il nuovo che avanza. Vergogna! Se da una parte si può dire che Grillo è trasversale, che piace tanto alla sinistra quanto alla destra e che soprattutto dà fastidio tanto alla destra quanto alla sinistra, dall'altra parte fioccano su di lui le accuse di qualunquismo, di populismo e di fare della facile demagogia per accaparrarsi gli applausi attraverso raffinati trucchi del mestiere di comunicatore. Questo gruppo qui, nella sua totalità, pensate cosa è successo? Bene, in un panorama come l'Italia, in questo gruppo qui, tutto il gruppo è incensurato! È un miracolo! È un miracolo! Il genovese senza peli sulla lingua divide in due l'Italia, tra chi vede nei suoi occhi la sincerità di chi crede ancora in un mondo migliore e lo ama così tanto da seguirlo in tutte le sue iniziative, e quelli che lo considerano un vero e proprio male sociale contemporaneo, come Eugenio Scalfari, padre del quotidiano La Repubblica. Grillo in persona, secondo me, meglio di molti altri personaggi, il peggio dell'italiano, è l'arcitaliano del peggio. Il suo cavallo di battaglia è quello della controinformazione, vale a dire dell'informazione underground, alternativa a quella ufficiale, che esercita sul palcoscenico di teatri gremiti di spettatori e sulle pagine del suo blog, non solo uno dei più cliccati nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Non è facile spiegare cosa sia un blog a un neofita della rete. Si può dire che in qualche modo è un diario virtuale nel quale la scrittura è arricchita di tutti gli elementi multimediali esistenti: musica, link, foto, video. Alcuni sono semplicemente siti personali, altri sono veri e propri canali tematici per appassionati di qualsiasi cosa, dalle auto di lusso ai peluche, dagli spot degli anni Ottanta alla moda vintage. Si trova davvero tutto, ed è sorprendente come negli ultimi anni questo fenomeno sia esploso per poi diffondersi a macchia d'olio, tanto che ad oggi è praticamente impossibile censirli, dal momento che è stato calcolato che ne nasce uno al secondo. Il blog di Beppe Grillo però è diventato un cult, un feticcio, un tema di studio per tesi di laurea, e non è un caso se è entrato nella top 10 dei 10 blog più cliccati al mondo, facendo parlare il Time di Beppe Grillo come uno degli eroi europei del 2005. Grillo denounced Parmalat's financial troubles, saying a company with more than $7 billion of debt should be bankrupt. Arrabbiato, indignato, scomodo. Oggi la nostra immagine di lui è questa, di una creatura nervosa che può seminare il panico tra le istituzioni e i poteri soltanto con una parola scritta a chiari caratteri nel web. Ma per lui non è stato facile cedere alle lusinghe di internet e della tecnologia in genere. Anzi, per natura Grillo è istintivamente portato a evitare quelle che definisce trappole della modernità. E sua figlia Luna a ricordare i vecchi spettacoli in cui papà si sfogava contro i computer. Ai vecchi tempi in cui lui faceva spaccare il computer con le mazze da baseball. Si è adeguato anche lui, ha fatto bene. Io come un bambino, non per essere contro, ma come un bambino che per amore vuol guardarci dentro un po'. Vuole guardarci dentro. Io voglio vedere la memoria madre. Sei ancora lì dentro? Sì! Sì! Sì! Bye! buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. È impossibile non ridere in casa Grillo, ma è anche una vita dura quella dei suoi familiari, come racconta sua figlia Luna, perché sono tutti controllati a vista su ogni piccolo gesto quotidiano, sulla distribuzione della raccolta differenziata, sugli acquisti consapevoli al supermercato, su tutti gli sprechi. A Beppe non sfugge niente e sgrida figli e moglie tanto quanto bacchetta tutti quelli che secondo lui non seguono un'etica. Sì, lui è così proprio, cioè lui a casa è così, quindi tutto quello che si vede è reale, cioè lui è vero, poi adesso proprio ancora di più. Oggi tra teatro, blog e politica non è più solamente un comico, è un filosofo, un opinion leader, un uomo in grado di catturare pubblico, sostenitori e applausi con i suoi interventi, che sono sempre meno monologhi e sempre più articoli di forte retrogusto satirico sull'economia e sulla società. È molto raro al giorno d'oggi che qualcuno che non va in televisione sia così famoso. Invece gli spettacoli di Grillo registrano sempre il tutto esaurito, indipendentemente dal numero di repliche, dalla città e dall'ampiezza della sala. E vi dico una cosa, là dove c'è la televisione non esiste la verità, mai. Eppure Grillo è partito proprio da lì, dal piccolo schermo, dalle ospitate del sabato sera, dai varietà, dai monologhi di pochi minuti quando ancora non esisteva la comicità a frammento che esiste oggi, incanalata in programmi che sempre di più sembrano cataloghi della risata. Ha cominciato, insomma, con un percorso analogo a quello di molti suoi colleghi, tra i quali Giorgio Panariello. All'inizio non si seguiva perché Grillo faceva un genere che è quello del cabaret, quindi non veniamo tutti da là, dal cabaret, quindi è chiaro che mi piaceva molto perché ha sempre fatto della satira sul sociale. Proprio lui, sempre contro tutto e tutti, è stato presentato dai conduttori che sono ancora le colonne portanti delle reti generaliste ormai in declino. A notarlo è stato Pippo Baudo, che l'ha visto, unico essere umano in una sala vuota, improvvisare a un provino e l'ha voluto invitare in alcune delle sue trasmissioni, assumendosi il rischio, finché ha potuto, di ciò che Grillo, ingovernabile e provocatorio, avrebbe potuto dire. Ogni volta mi chiamavano dalla direzione generale e mi dicevano: com'è il copione di Grillo? E io, che non avevo letto il copione, perché non c'era il copione di Grillo, perché erano dei pezzettini di carta, dicevo: bellissimo, ma ci sono pericoli? Nessuno. Poi mi salvavo dicendo: il comico è così, il comico improvvisa. Pensare che un comico improvvisi la maggior parte del suo repertorio è un'ingenuità che di certo Baudo, profondo conoscitore dei meccanismi televisivi, ha usato per salvarsi. A fianco del comico che ci mette la faccia c'è un autore, un braccio destro invisibile ma sempre vicino, che da dietro le quinte, matita in una mano e foglio nell'altra, tiene tutto sotto controllo. E anche Grillo sul palco si sente sicuro perché ha quel compagno di avventure dalle sembianze di uno scienziato pazzo che non lo molla un secondo. Sono gli anni Ottanta. Da una parte c'è la Rai, dall'altra le neonate TV private. In mezzo c'è lo spettatore che per la prima volta si trova a poter scegliere tra un'offerta così variegata che spazia dai telefilm ai cartoni animati, dalle soap opera alle sitcom e dai programmi comprati all'estero ai nuovi format inventati in Italia. Sono molte le trasmissioni caltanate proprio in questi anni. Renzo Arbore è il re della stravaganza in quelli della notte e indietro tutta, mentre Antonio Ricci firma Drive-In. Dopo gli anni dell'impegno sociale e politico c'è molta voglia di ridere, di divertirsi, di giocare. Beppe Grillo con Te la do io l'America propone, con il pretesto del reportage, un nuovo modo di fare satira sociale e di costume. Ecco, c'è una cosa che vorrei dirvi, ragazzi, no, veramente. Ognuno lì, chiunque si può aprire una chiesa. Cioè, tu con $3 iscrivi il nome della chiesa, guarda che sono cose fatte, ti fai una chiesa per gli affari tuoi. Cioè, io a Genova potrei farmi, non so, la chiesa Jesus Grillo, protettore dei risparmiatori, non lo so, e troverai i fedeli, te li immagini, e c'hanno i fedeli. È lì il lato drammatico, perché uno può anche impazzire e farsi le chiese che vuole, ma trova gente che ci va dentro, te le immagini? Andiamo da Bacicalupo in chiesa o da Grillo? Andiamo da Grillo che ci facciamo anche due risate. I comici spesso e per definizione non vengono presi sul serio. Eppure quelli bravi come Grillo sanno condensare, nella sintesi di un secondo, più significati di quelli che potrebbero essere contenuti in pagine e pagine di discorsi sui grandi temi dell'umanità. Ogni gag è un lampo di genio, ogni lazzo un'intuizione che sorprende, ogni battuta uno sguardo diverso sul mondo. Quello che sembra improvvisazione teatrale, irruenza di chi sa stare sul palcoscenico, in realtà è frutto di una scrittura complessa che richiede ore e ore di lavoro. Arrivare a far ridere da una suggestione non è sempre un gioco da ragazzi, ma sicuramente è un gioco di squadra. Tutto sta nel trovare il compagno giusto. E il destino in questo riesce sempre a sorprendere. Mi sono fatto un chinotto on the rocks. Oh baby baby, American bar. Sono stravolto, mi scoppia New York. Oh baby baby, American blue. Non ce la faccio più. Roba da pazzi, la mafia non c'è. Oh baby baby, American boss. Un business da 11 cents. Oh baby baby, American big. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo negli anni 80 e un giovanissimo Beppe Grillo, ancora lontano dalla politica e da quella manifestazione collettiva che raduna migliaia di suoi sostenitori, il V-Day, fa il comico in televisione, strizzando sempre di più un occhio alla satira. Alcune delle sue apparizioni, provocatorie sopra le righe, sono memorabili. Eppure Grillo, proprio lui, che è così critico nei confronti della pubblicità e del consumismo, per molti anni viene associato più di tutto a una nota marca di yogurt, di cui è testimonial. Una vita di televisione e vengo premiato per uno yogurt. E questo perché? Perché io come vado in televisione e dico qualche cosina. Discorso sospeso. Puntini di sospensione. Grillo, di fronte a una platea che lo ascolta ammaliata, non ha bisogno di andare avanti perché tutti sanno già a cosa si riferisce. All'episodio che l'ha fatto cacciare dalla Rai, costringendolo a un vero e proprio esilio dalla televisione. Era il 15 novembre 1986 e al governo c'erano i socialisti di Bettino Craxi. Grillo, durante un monologo riferendosi a una visita in Cina, pronuncia la battuta che gli costa l'espulsione. A un certo momento Martelli ha fatto una delle figure più terribili. Ha tornato Craxi e ha detto: ma senti un po', qua c'è un miliardo e sono tutti socialisti. E Craxi ha detto: sì, perché? Ma allora se sono tutti socialisti, a chi rubano? In studio il gelo e Baudo che si dissocia pubblicamente. Ma questo non basta a evitare la rimozione di Grillo dai palinsesti. Questa volta, secondo i vertici della TV pubblica e quindi della politica, ha superato il limite. Soprattutto perché era già stato avvisato una volta, quando aveva inscenato una gag partorita dalla mente del suo autore, il suo complice, il suo eterno amico. L'uomo che l'ha aiutato a emergere quando ancora non era famoso grazie al graffio del suo umorismo. È uno dei più grandi scrittori italiani e i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo. È il nostro secondo personaggio di oggi. Il suo nome è Stefano Benny. Stefano Benny. Stefano Benny, che i fan chiamano semplicemente Lupo, nasce a Bologna nel 1947. La città è ancora quel grande paesone che sogna di essere metropoli, ma continua a essere provincia. Una provincia fatta di strade senza macchine, portici che nascondono bar e osterie, e una delle università più antiche e prestigiose. Io non è che poi rimpiango tutto di quei tempi, non rimpiango certo il freddo, la neve, la miseria del posto dove sono nato. Rimpiango molto la capacità che aveva ognuno di avere un senso dell'umorismo proprio, di saper raccontare delle storie da solo, questo sì. Il luogo privilegiato per tutto questo è il bar, perché il bar è il luogo della narrazione, delle voci di corridoio, degli aneddoti che partono dalla bocca di qualcuno e si ingigantiscono bocca dopo bocca, passaggio dopo passaggio, fino a diventare leggende. La vittima degli scherzi? Il bullo del quartiere, quello che sa sempre tutto di tutti, l'anziano che tiene il giornale anche se non lo legge, la signora che quasi ha pudore a entrare in un posto che per tradizione è appannaggio maschile, quello che chiede indicazioni perché si è perso, e il playboy che millanta avventure ma viene sempre smascherato. Un'umanità varia e strampalata che Benny frequenta fin da bambino e che anni dopo, al momento di scrivere Bar Sport, gli sarà di grande ispirazione. Di un ritornello che ti resta in testa, di uno spiffero dalla finestra, delle tue labbra e della tua maglietta, una canzone lenta come una bicicletta. Una canzone piccola, fatta di due strumenti, al massimo due accordi, senza tanti accorgimenti, lontana dall'Europa, dal mondo e dalle stelle, ma molto, molto, molto, molto, molto, molto vicina alla mia pelle. Bar Sport è il primo libro di Stefano Benni, pubblicato nel 76. Il titolo evoca il nome del bar per antonomasia in tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia. In ogni piazza, di ogni paese, c'è un Bar Sport. Io sono meticcio, sono di padre nordico e di madre del sud, quindi quando mi chiedono che Italia è, Bar Sport è forse più un bar del nord, ma c'è in mezzo anche tutta il bar all'aperto del sud, insomma la piazza del sud. Tra un cappuccino e un latte macchiato nascono amori, sfide, avventure. Regina incontrastata è la Luisona, la brioche del paleolitico, condannata a una perenne esposizione e sempre in attesa di un consumatore. Flipper, cartoline dal mondo appese sullo specchio, tabellone del totocalcio, telefono a gettoni e un biliardo. Più che un punto di ritrovo, il bar è un punto di riferimento. Proprio per questo, Bar Sport, quando esce, diventa in pochissimo tempo un caso letterario, un cult che supera il tempo e lo spazio e soprattutto una vera e propria Bibbia della comicità. La battuta, la gag, sì, la sappiamo fare tutti, no? La sa fare il bagaglino in un modo, Luttazzi la fa in un modo diverso, ma non è lì il segreto dell'umorismo. Il segreto dell'umorismo è immensamente più complicato. Stefano Benni dell'umorismo ha fatto la chiave di lettura della sua vita. Come spesso accade, cercando di non cadere nello stereotipo, chi sa far ridere è qualcuno che sa anche piangere. Perché è nella sintesi tra il comico e il tragico che viene fuori la grandezza di un autore. Se l'orchestra ha sempre gli stessi strumenti, c'è un'interpretazione, allora se quel giorno il direttore è più allegro, dirige la stessa cosa in modo allegro, e forse ogni tanto io sono un direttore dell'orchestra della mia scrittura un po' più malinconico. Dopo Bar Sport, Benny inizia a sfornare un successo dietro l'altro, senza mai deludere il suo pubblico. Il Bar Sotto il Mare, la raccolta di poesie L'ultima lacrima, e poi Terra, Comici spaventati guerrieri, La compagnia dei Celestini. In ognuno mette tutta la sua fantasia, la sua forza creativa, la sua genialità che non lascia dubbi a nessuno. Scrivere è un piacere per Lupo, come lo chiamano i fan. Benny si diverte quando lavora, si diverte a cercare l'espressione giusta e quando non la trova, conia un neologismo. Ha una passione sfrenata per la satira. Oggi il tema è più che mai attuale. Le polemiche sulla censura, le rivendicazioni sulla libertà di espressione, Luttazzi accusato di copiare le battute dei comici americani. Benny di tutto questo si occupa da tempo e ha una visione ben precisa. Quando parlo di satira divento terribilmente serio, un po' pedante e anche un po' noioso. Con un pensiero così chiaro e un talento così indiscutibile, Stefano Benni è un grande maestro nel fare satira pungente in un modo tutto suo. Dai suoi libri, dalle pagine dei giornali, dagli spettacoli teatrali, tutto porta allo stile del bolognese, che trova una grande affinità con l'autore francese Daniel Pennac. La satira non esclude dall'essere stupidi, e questa è una cosa su cui non discuterai. Non è che uno è satiro ed è intelligente. Ci sono persone che dicono: io faccio satira, e poi dicono delle banalità, dei luoghi comuni, che sono più retorici della retorica che contestano. Io mi sono un po' stancato di questo. Ma all'inizio, quando ancora doveva farsi le ossa con la televisione, pur sapendo che i suoi desideri vertevano sulla letteratura e sul teatro, Benny aveva bisogno di qualcuno che si fidasse di lui. Qualcuno a cui mettere in bocca le sue parole, non perché non ne fosse convinto, ma perché gli serviva una legittimazione, una spinta a continuare e un compagno di avventure. L'uomo giusto per tutto questo e per intraprendere con lui la sfida della satira nel piccolo schermo era Beppe Grillo. Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia! presa a tradimento. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni Ottanta e la televisione italiana è nel pieno della sua euforia. Stefano Benni e Beppe Grillo, giovani e sognatori, stanno lavorando insieme a quattro mani ai testi che Beppe metterà in scena nei programmi in voga in quel momento. A legarli c'è un forte spirito di squadra, una profonda amicizia, la stessa visione sul mondo e soprattutto lo stesso modo di intendere la comicità che il mondo lo deve raccontare. Quindi ho sempre pensato che la vera satira sia uno strano miscuglio di attuale e di inattuale. Capisci cosa vuol dire? Attuale vuol dire che colpisce qualcuno che è in quel momento, inattuale perché in qualche modo deve essere un'indignazione un pochettino più profonda, un po'. Se Benny è riflessivo, Grillo è un animale da palcoscenico che ragiona di pancia, ma non può che condividere il pensiero dell'amico. Parlare di attualità significa svelare che il re è nudo, come spiegano i classici, e al contempo dare speranza alle generazioni future. Chiedetemi se le cose andranno meglio o peggio. Andranno peggio, ma proprio per questo noi dobbiamo dare il meglio. Insomma, c'è una bellissima frase di Pasolini su questo, no? Io non ho nessuna speranza, ma forse sono capace di dare speranza a qualcun altro. I due ridono, si divertono e scoprono insieme il gusto di dar fastidio ai potenti, alle istituzioni, al sistema, da qualsiasi cosa sia rappresentato. Cercano insieme di usare la satira per raccontare l'Italia con i suoi vizi, i suoi tic e i suoi scandali, come quello della P2, la loggia massonica guidata da Licio Gelli, che è oggetto della indimenticabile battuta firmata Benny, che dalla voce di Grillo è passata alla storia. Dimostrerò matematicamente l'esistenza dell'onorevole Pietro Longo. State attenti perché è una coserma. State fermi! È in gioco la carriera qua. Potrei dire che Longo è uguale a P, però non sta bene. Allora dico che Longo è uguale a 2P, che è come dire Longo uguale a P2. Con quello che Benny definisce scherzetto comico matematico, messo in scena nel contenitore domenicale per famiglie Domenica Inn, Grillo rischia veramente la carriera. Polemiche, intimazioni ad andarsene, dibattiti sui limiti della satira e altrettante discussioni sui limiti della censura. Ma ormai il sasso è stato lanciato e anche se stavolta non riescono a cacciarlo, Grillo finisce nella lista dei nomi da tenere sotto controllo. C'è pieno di carabinieri che delle volte mi guardano un po' così, poi guardano Califano e io mi tiro sul morale. Grillo non se la prende col suo amico Stefano, anzi va fiero del risultato che insieme hanno prodotto. Ma il ruolo della televisione, sempre di più, è diventato quello di coccolare, di rassicurare lo spettatore, di farlo divertire senza pensare troppo. E due personaggi come Benny e Grillo, che presi singolarmente sono pungenti e scomodi, insieme sono corrosivi. Pensare come il rapporto tra Benny e Grillo, nato dietro le quinte di studi televisivi gremiti di luci, ospiti e telecamere, sia servito a convincere entrambi ad allontanarsi dal piccolo schermo. Grillo, dopo la battuta di Benny, entra a pieno titolo nei personaggi ingovernabili e pericolosi. Si accorge, sempre grazie all'amico e compagno di viaggio, che quella è la sua strada. Non il pubblico dello zapping annoiato, ma il pubblico degli spettacoli dal vivo dove esprimersi liberamente, dove urlare quello che vuole, dove combattere la sua personale battaglia contro gli sprechi, i comportamenti antiecologici, le ingiustizie. Una battaglia che, come racconta il comico Giorgio Panariello, passa poi dai palchi dei teatri a quelli delle piazze. Ognuno di noi ha comunque un'ispirazione. Io prima ho detto Gino Premieri, Pieraccione, probabilmente Francesco Nuti o Benigni. Ognuno di noi ha un suo faro. Verdone, chiaramente, Alberto Sordi. Lui si è ispirato molto a un comico degli anni 70 che si chiamava Coluche. Benny, che invece passa ai giornali, a qualche regia, ma soprattutto si dedica al suo primo amore, la letteratura, segue l'amico in tutto quello che fa, condividendone ancora una volta lo sguardo sulla vita, dalle cose piccole alle cose grandi. Io sul blog di Beppe qualche volta scrivo, perché è una cosa immediata, non ho mai voluto farne uno mio, ecco, mi spaventa un po', perché non credo che più strati di informazione più significano poi più verità, assolutamente. È come quando in televisione tutti parlano insieme, no? In modo molto maleducato, il risultato è una cacofonia complessiva, ma non è più dibattito. Il bolognese e il genovese, lo scrittore e il comico, Benny e Grillo si sono aiutati, stimolati e influenzati reciprocamente da quando si sono visti per la prima volta. La loro amicizia, che va al di là del lavoro, resiste agli anni e alle avventure che ognuno da solo ha scelto di intraprendere. Il loro, senza dubbio, è un incontro tra due menti brillanti e soprattutto due spiriti capaci di interpretare il nostro tempo, sognando prima o poi di cambiare ancora rotta, sempre fianco a fianco, senza mai perdersi di vista. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.